terzo anello. Ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi. Introduzione di Raffaele Manica. Quando pubblica Con gli occhi chiusi il suo primo romanzo, Federigo Tozzi ha 26 anni. Era nato nel 1883, siamo nel 1819. Con gli occhi chiusi esce da Treves, un editore molto importante, e resta nella memoria la pronta recensione scritta niente meno che da Pirandello. Chi è in quel momento Tozzi? Che cosa ha alle spalle? Le domande sono necessarie perché Con gli occhi chiusi raccoglie in sé una serie di motivi autobiografici che Tozzi manipola e organizza con uno stile dalla secchezza leggendaria, che prosciuga e raggela fatti dal nucleo incandescente. Risuona nelle pagine del romanzo una vita controversa, una vita turbolenta. Come molti romanzi di esordio, si potrebbe dire anche Con gli occhi chiusi nasce da una volontà di confessione. Ma questa confessione è trasfigurata, senza enfasi. Tozzi ha fino allora praticato quasi soltanto letteratura, idealizzando la realtà. Dunque, Con gli occhi chiusi è una confessione romanzesca intorno a una vita vissuta malamente, durante la quale solo la passione letteraria è stata bussola, ma una bussola dal lago oscillante. Mentre la vita si chiudeva, mentre la vita gli si svolgeva accanto, e Tozzi, come vuole il titolo del suo romanzo, Con gli occhi chiusi, non vedeva la vita, qualcos'altro gli entrava dentro. La letteratura, appunto. Più volte allontanato dalla scuola per motivi di disciplina, quel ragazzo rivoltoso, fuggito anche da casa per un rapporto col padre mai risolto, e precipitato dopo la morte della madre, Federico ha 12 anni, frequenta per conto suo le biblioteche, da autodidatta legge disordinatamente i classici, consuma avidamente letture al confine tra filosofia e psicologia, nell'illusione che lo aiutino a fare i conti con se stesso. Come Pietro Rossi, il protagonista del romanzo, anche Tozzi ha una salute precaria. Come Pietro Rossi, anche Tozzi è portato a sognare anziché a vivere. E come Domenico Rossi, il padre del protagonista, anche Federico Tozzi, il padre dello scrittore, perché padre e figlio portano lo stesso nome, anche Federico padre ha una trattoria, centro della sua vita gretta. Come la madre del protagonista ha reso ipersensibile il figlio, così Annunziata, madre di Federico, ha contribuito a rendere difficile il rapporto del figlio col mondo, riversandogli addosso un affetto forte, ma senza tenerezza. E la memoria prepotente dell'introflesso rapporto con le donne di Federico riguarda anche Pietro. La Ghisola di Con gli occhi chiusi è ispirata a varie donne, dalla figura di Isola, la contadina sensuale che Federico aveva conosciuto da ragazzo e della quale si innamorerà a 18 anni, mentre su di lei si appuntano anche gli sguardi interessati del padre. Il padre era un consumatore di sesso senza troppi scrupoli e nel rispetto per le pareti domestiche. È ispirata a Mimì, una donna idealizzata, incontrata a Firenze, incinta di un altro, della quale Federico scrive a Emma Palagi, la donna conosciuta attraverso l'inserzione su un giornale. La relazione con Emma sarà avversata dal padre di Federico e il padre, arrivato alle percosse nei confronti del figlio, muore quando è il 15 maggio del 1908. 15 giorni dopo, Federico sposa Emma. Gli si accende una nuova spiritualità. Con l'amico Giuliotti, nell'editoriale della Torre, organo della reazione spirituale italiana, si definisce reazionario e cattolico. Della Torre diffidano praticamente tutti, dal Sant'Uffizio alla voce alla cerva. Intanto Tozzi ha cancellato materialmente la presenza del padre. Venduta la trattoria, congedatosi dalle ferrovie, l'esperienza sarà raccontata nei ricordi di un impiegato, è ora in difficoltà economiche. Trasferitosi a Roma, ha davanti lo spettro della miseria in cui vive un suo vecchio amico, il pittore Armando Spadini. Nel 17 pubblica Le prose di bestie, legge Dostoevskij, conosce scrittori e pittori. La guerra lo vede nella Croce Rossa. E questo è il clima mentale, diciamo pure la febbre o l'inferno, in cui elabora e pubblica Con gli occhi chiusi, concentrando in Ghisola tutte le sue donne. Vi lascio all'ascolto della lettura di Francesco Siciliano. Usciti dalla trattoria i cuochi e i camerieri, Domenico Rosi, il padrone, rimase a contare in fretta, al lume di una candela che sgocciolava fitto, il denaro della giornata. Gli si strinsero le dita, toccando due biglietti da 50 lire, e prima di metterli nel portafogli di cuoio giallo, li guardò un'altra volta, piegati, e soffiò sulla fiammella avvicinandosi con la bocca. Se la candela non si fosse consumata troppo, avrebbe contato anche l'altro denaro nel cassetto della moglie, ma chiuse la porta, dandoci poi una ginocchiata forte per essere sicuro che aveva girato bene la chiave. Di casa stava dall'altra parte della strada, quasi dirimpetto. Ormai erano 30 anni di questa vita, ma ricordava sempre i primi guadagni e gli piaceva alla fine di ogni giorno sentire in fondo all'anima la carezza del passato. Era come un bell'incasso. La sua trattoria. Qualche volta, parlandone, batteva sulle pareti le mani aperte, per soddisfazione e per vanto. Arrestato contadino, benché avesse presto mutato mestiere, era capace di pigliare a pugni uno che non avesse avuto fede nella sua sincerità. E credeva che Dio, quasi per accontentarlo, avesse pensato, insieme con lui, alla sua fortuna. Del resto sentiva la necessità di arricchire di più per paura delle invidie. Quanti avrebbero fatto di tutto per rivederlo senza un soldo? Le sue 4 sorelle e i suoi 3 fratelli erano rimasti poveri al loro paese di Maremma, a Civitella, tra le boscaglie piene di cinghiali, nella casa di pietre scheggiate, con la scala che si muoveva sotto i piedi, fatta con i sassi presi dal fiume, con le finestre in faccia a una montagna di galestro tanto a ridosso e ripida che pareva di rimanerci sotto, quasi avesse dovuto un giorno o l'altro precipitare. E il Rosi pensava al suo paese troppo angusto, come ad una cosa che non esistesse più, o almeno soltanto per gli altri. I ricordi della giovinezza avevano la stessa importanza dei teatri e delle figure dei giornali, che egli odiava con disprezzo, stupidaggini piacevoli per gli sfaccendati, che avevano soldi da buttar via. Lo stesso pensava per chi fumava, e nessuno, perciò, poteva dire d'averlo mai visto al teatro, o peggio con il sigaro in bocca. Egli era troppo astuto. Appena stabilitosi a Siena, a 20 anni, sposò Anna, una bastarda senza dote, piuttosto bella e più giovane di lui, aprendo un'osteria che con l'andar del tempo divenne una delle migliori trattorie della città, il Pesce Azzurro. Ora avevano un figliuolo che ormai terminava 13 anni, Pietro, ma prima di quello ne erano nati 7 altri, morti, l'uno dopo l'altro, appena tolti da balia. Pietro, molto tardi per riguardo alla sua salute, lo mandavano al seminario, che era la scuola più vicina, tra gli alunni chiamati esterni, cioè tra quelli che prendevano le lezioni con i seminaristi e poi tornavano a casa senza aver l'obbligo di vestire come loro. Il penultimo parto aveva lasciato le convulsioni ad Anna, che del resto era stata sempre soggetta a qualche sintomo isterico, una malattia che faceva ridere Domenico, una specie di facezia che egli non capiva. E se ne irritava, come se lo offendesse, quando il ridere non portava nessun rimedio, e c'era alla farmacia il conto da pagare. Anna, remissiva e fanatica per lui, accortasi alla fine, dopo tanti anni di matrimonio, che la tradiva, aveva creduto più di una volta che le tirassero giù il cuore con tutte e due le mani, e si sentiva invecchiare e imbruttire prima del tempo. Quando ci pensava, gli occhi le si bagnavano, ma non ne parlava mai con nessuno, perché per quanto fosse molto buona con tutti, non voleva amicizie. Però si sentiva come soffocata, con una bontà quasi rabbiosa, e odorando il suo aceto aromatico, le lacrime le andavano fin sulle labbra. Accanto a Domenico, siccome desideravano un erede, i figli morti diventavano anche per Anna soltanto attentativi astratti e dovuti abbandonare, certo a fine di bene, se il destino aveva voluto così. Perciò ella amava Pietro con un affetto superstizioso, ma era incapace per indole di mostrargli una grande tenerezza, sebbene le piacesse d'averlo sempre vicino. Quando le si addormentava sopra una spalla, non si sarebbe mai decisa a farlo portare a letto da Rebecca, che era stata la sua balia e ora faceva da serva e da cantiniera. Ma Domenico, tutto in faccende ed eccitato senza smettere di lavorare, gridava alla cugina: «Tieni codesto peso addosso!» Ed ella, perché non venisse da sé ad alzarlo con quelle sue braccia scamiciate, lo svegliava e lo mandava a letto. La sera dopo gli diceva sottovoce e stizzita d'obbedire: «Mi dai fastidio, non t'avvicinare!» Ma Pietro non le dava retta e si ficcava tra lei e un bracciale della poltrona tenendole una mano e chiudendo gli occhi con il sonno. Anna allora svicolava la mano perché aveva da rendere resti ai camerieri e anche da salutare gli avventori che entravano e uscivano. La trattoria seguitava fino a tardi ad esser piena. Il lavoro eccitava anche lei, ma verso la mezzanotte erano tutti stanchi e impazienti di riposare. Se restava ancora qualcuno a tavola, spegnevano l'uno dopo l'altro tutti i lumi delle altre stanze. I camerieri si toglievano le giacche da lavoro, i cuochi si cambiavano le giubbe. In questi momenti di attesa e di sosta, Anna ne approfittava per finire tutti i suoi lavori di biancheria e anche per fare qualche ricamo dei più semplici, per non spendere troppo e per non saperli fare meglio. Ella, da ragazza, era stata cameriera e non aveva avuto tempo di imparare niente. Sapeva scrivere, però, e ci aveva preso così pratica che non sbagliava mai le somme dei conti degli avventori. Faceva tenere bene in ordine tutto: i piatti e le scodelle sopra una vecchia madia, il pane e i fiaschi del vino dentro la dispensa. E sapeva trattare con i fornitori. I limoni se li sceglieva da sé, però con la sorveglianza e l'approvazione di Domenico e con una meticolosità che la inorgogliva e che le faceva piacere. Se il fruttivendolo era riuscito a dargliene uno di buccia grossa o sciupata, Domenico se lo faceva cambiare dopo averglielo battuto sotto il naso. Anna, per lo più, andava a letto, se le era possibile, qualche mezz'ora prima di lui. Una notte Domenico afferrò dalla sedia, portandolo nella strada, un macchinista briaco che s'ostinava a non uscir di bottega. Quegli allora aprì il coltello e gli si slanciò addosso. Ma Domenico si scansò e i camerieri si misero di mezzo. Anna, che era lì, con la testa avvolta in uno scialle di lana, come teneva sempre, si impressionò tanto che in seguito le sue convulsioni si fecero più frequenti e più forti. Per curarsi, il medico le disse di stare più che poteva appoggio a Meli, al podere comprato da poco. Il sabato tornava a Siena, perché, essendo giorno di mercato, non avrebbe potuto lasciare la trattoria. Con lei andavano Pietro e Rebecca. Domenico dormiva in città, ma ogni sera, per il giorno dopo, portava alla moglie una sporta di vivande nel suo legnetto a due posti, stringendola con le gambe perché non cadesse. Poggio a Meli si trovava fuori di Porta Camollia, per quella strada piuttosto solitaria che dal Palazzo dei Diavoli va a finire poco più in là del convento di Poggio al Vento. C'era una vecchia casetta rintonacata di rosso a un piano solo e congiunta al tinaio e alle abitazioni degli assalariati fatte sopra le stalle. Il rosso pareva molto bello a Domenico, mentre Anna, come le aveva anche detto qualche conoscente, avrebbe voluto scegliere o un celeste o un giallo canarino. Si entrava subito nell'aia, con il pozzo da una parte e un pergolato a cerchio sotto il quale Domenico teneva a stagione buona una dozzina di conche con le piante di limone. Il solo lusso, invece, del giardino. Egli ne faceva un gran conto, però, benché fosse stata una spesa che gli rendeva poco. Molte volte, secondo l'umore, non voleva nemmeno che Pietro le toccasse. Il podere era di qualche ettaro, con la siepe di marruche e di biancospini sulla strada, un piccolissimo appezzamento pianeggiante e coltivato bene. Il resto appendice, fino al fosso di un'altra collinetta che regge le mura della porta camoglia. Lungo i confini, querci, grosse e nere, con qualche noce alto alto, e nei fondi salci e orti, perché c'era l'acqua. Dall'aia si vedeva Siena. Ogni domenica, a fin di mese, gli assalariati andavano, dopo la messa, alla trattoria. E il Rosi li pagava, facendosi fare da ognuno una croce alla meglio sopra le marche da bollo. Allora spiegava le sue intenzioni e discuteva dei lavori. Era sempre poco contento e li minacciava immancabilmente di mandarli via. Poi, ripetuti sempre a voce più forte gli ordini da eseguirsi il giorno dopo, diceva che se ne potevano tornare a casa. Ed egli, perché era già l'ora che gli avventori andavano a mangiare, si tirava su subito le maniche della camicia ed entrava in cucina. Per solito, mentre pagava, faceva colazione. Per la strada passavano di solito, a seconda delle ore, qualche cappuccino la mattina, i contadini e i loro carri sempre. Tutti i giovedì, verso mezzogiorno, i mendicanti che andavano a mangiare la zuppa del convento. In autunno c'erano anche parecchie famiglie di villeggianti e i forestieri di una pensione, e questi stavano fuori la sera. Le domeniche, a tempo bello, qualche comitiva che cantava dopo aver bevuto alle trattorie e alle bettole del borgo fuori porta. Siccome Anna s'era affezionata a Rebecca, che il suo seduttore non aveva voluto sposare benché l'avesse resa madre, e a Domenico piaceva, avevano messo tra gli assalariati di Poggio a Meli i suoi vecchi genitori Giacco e Masa. Erano poveri e avevano altre figliole che se n'erano andate a marito. Dopo qualche anno, perciò, si raccomandarono al padrone perché fosse contento di tenere Ghisola, una loro nipote nata a Radda, figliola di una delle sorelle di Rebecca. Giacco e Masa non buttavano via nemmeno un mezzo chiodo arrugginito. Giacco aveva i calzoni di fustagno verde così sparsi di toppe che della prima stoffa rimaneva solamente qualche strisciolina qua e là. Il fazzoletto che Masa portava in capo l'aveva comprato da giovine. Siccome ella non riusciva mai a far da mangiare a tempo, Giacco si impazientiva e cominciava a imprecarla, seguendo con gli occhi ogni passo di lei, che si confondeva e ci metteva di più. Bisognava vederla. Versava da un'ampolla di latta un filo d'olio, un filo così sottile come la punta di un ago. Sgocciolato bene il forellino, prima di richiudere l'ampolla dentro la madia, vi passava sopra la lingua più di una volta. La padellina bolliva ed ella vi buttava aglio e cipolla tritata. Quando l'aglio era diventato giallo e abbrustolito, metteva il soffritto nella pentola piena d'acqua salata, la riaccostava al fuoco e intanto affettava un pane appoggiandoselo al petto e spingendo il coltello con ambedue le mani. Il cane da guardia, Toppa, faceva sparire le briciole di mano in mano che cadevano. Masa, disperata, lo allontanava con un piede. Voleva serbarle per le galline. Appena entrato, Giacco si lavava in un catino di rame tutto a ammaccature. Poi sedeva passandosi le dita corte e callose sul volto. Masa, finalmente, votava l'acqua sopra il pane affettato e Ghisola portava in tavola i cartocci del sale e del pepe, facendosi rimproverare perché sfregava troppo le spalle al muro per andare da un punto all'altro della stanza. Giacco, pensando al vitello che gli aveva ficcato il muso sopra la schiena mentre gli empiva di erba la mangiatoia, sì che lo aveva fatto allontanare, dicendogli «Non vedi che mi impeli tutto?», comandava alla moglie. «Prima di venire a sedere, metti al fuoco il beverone per la bestiola. Lo sai, ma fingi sempre di scordartene». Egli, finita la fatica, provava una gran tenerezza per quelle carezze nella stalla, quando l'alito del vitello era caldo e umido come il suo sudore. Ricordandosene, mangiava in silenzio.